Avanzi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti, di Leonardo Manera e Daniele Ceva. Finalmente sabato. Finalmente sabato, buon sabato pomeriggio a tutti. Io sono Leonardo Manera, la mia voce purtroppo ha qualche problema perché col caldo che poi diventa freddo, il freddo che diventa caldo, la mia voce ha avuto un abbassamento, ma fortunatamente non sono da solo perché a farmi compagnia, devo dire per fortuna oggi, ma insomma normalmente purtroppo, c'è Daniele Ceva, un uomo discutibile, spregevole, un uomo spiacevole. Vabbè, insomma, tutto questo vi saluta e saluta un po' meno Manera, che ahimè appunto ha questa trova tutte queste scuse della temperatura, ma in realtà è questa ormai vecchiaia, la decadenza fisica, perché la decadenza è sfatto. Manera si sta disfacendo, mi sto disfacendo. Oggi è sabato e io lunedì compio 48 anni, quindi sono nella seconda fase sicuramente della vita, perché non immagino di poter vivere. Ma sai che i 48 sono i 38 di una volta, perché c'è l'ora legale, no? Perché c'è l'anno, sì, esatto. C'è l'anno legale. Caro Ceva, invece di stare qui a cazzeggiare, diciamo un po' che cosa facciamo oggi. Abbiamo delle notizie che commenteremo, perché sono come sempre notizie curiose, ma che non vengono trattate dai grandi giornali, oppure vengono trattati come trafiletti qua e là, e noi le recuperiamo sia sui giornali e anche dal web, grazie all'aiuto prezioso di Marco Del Conte, che collabora con noi, e ve le riportiamo qui e le commentiamo, insomma, a partire per esempio dalla prima. Cosa dice la prima notizia di cui ci occupiamo? Allora, praticamente esiste questo signor Burger di cognome, Joel di nome Burger di cognome, che sposa questa Ashley King. Quindi la famosa catena di fast food, la Burger King, ha deciso di sfruttare questo evento come diciamo mossa pubblicitaria e pagare tutta la cerimonia, la regali, cerimonia. Tutta la cerimonia di, insomma, stanno impazzendo negli Stati Uniti perché insomma ha scatenato molto interesse. Anche noi dovremmo cambiare nome qualora, esatto, ci dovessimo sposare. Io mi chiamo Cola. La signora Coca. Esatto, con la signora Coca ci facciamo. Quindi lanciamo questa nuova moda: cambiate il cognome, trovate una combinazione che permetta di trasformare la vostra unione in una marca, in un brand famoso, ricco, e che in modo da farvi pagare tutta la cerimonia, viaggio di nozze e eventualmente gli alimenti nel futuro. Ma poi anche ci sono tante aziende famose che hanno il nome composto, per esempio Pozzi e Ginori. Quanti signori Pozzi ci sono? E sono signori? Due cognomi, no? Sono due cognomi, sì. Dolce e Gabbana. Dolce e Gabbana. Ci sono tante signore Dolce e Gabbana, eccetera, eccetera. È una cosa per risparmiare sul matrimonio. Esatto. Lei sa cosa capitò a un noto comico un po' di anni fa, insomma, io lavoravo in un locale, sì, e c'era anche questo comico che lavorava in questo locale, e una sera entrarono due donne, per usare un eufemismo, non proprio belle, e questo comico, con una indelicatezza di fondo, disse: sono arrivati Pozzi e Ginori, due cessi della Madonna. Queste due signore erano in compagnia di un uomo, il quale è salito sul palco e ha spezzato il pollice di questo comico, perché effettivamente era stato un po' indelicato. Beh, diciamo. C'è da dire che il resto del pubblico comunque sicuramente si è divertito molto nella serata, fino a quando è salito poi lei. È stata una serata inusuale, diciamo. Comunque, diciamo qualche battuta sul matrimonio, per esempio questa: che cosa ama sentirsi dire un uomo dalla propria moglie? Appena sposato, ti amo. Dopo 5 anni di matrimonio, ti voglio bene. Dal 6° anno in avanti, è pronto. È di Marco Del Conte cioè, che è qui con noi. Allora, fedi nuziali, le manette più piccole del mondo. Questo è di un anonimo. Oppure, poi ce n'è una famosa che è: sono contrario ai rapporti prima del matrimonio perché fanno arrivare tardi alla cerimonia. di Antonio Ricci. A proposito di amore e di matrimonio, questo è un love story che non ha avuto un epilogo, diciamo, sull'altare, ma con l'altare ha qualcosa a che fare. Perché? Perché è una love story tra un sacerdote e una fedele. Lei, lasciata, va in TV e racconta tutto. Per mesi ha avuto una relazione segreta con il parroco. Chissà poi perché il parroco, i preti hanno sempre questo fascino sulle donne. Perché, Ceva? Ma non lo so, perché si confidano, sanno praticamente un po' capire, no? Danno questa idea di comprensione che le donne magari spesso non sono comprese così tanto a casa, in famiglia o da altri uomini. Secondo me, a me una volta una donna l'ha detto, che la donna è attirata proprio dalla tonaca. Vuole sapere, un po' come il kilt scozzese. Il bello della divisa. Vuole sapere cosa c'è sotto. Cosa c'è sotto. Questo è vero. veramente incredibile. Sì, ha ragione così, Beniamino. Anzi, io ti consiglio a mio figlio Beniamino di diventare prete. Se vuoi avere molte donne, Beniamino, devi andare in seminario e farti prete. Così le donne saranno attirate da te, tu potrai decidere se gratificarle sessualmente o no. Io poi, per quanto mi riguarda, sarei favorevole anche al fatto che i preti possano avere rapporti sessuali. Perché no? Io lo sconsiglierei ai preti di ma di, cosa è successo? Lei una volta lasciata, lui è un veneto di 53 anni e lei una messinese di 47 anni, ha denunciato la questione e ha raccontato tutto a un sito locale. Lei, la storia d'amore è cominciata nel luglio scorso, eccetera eccetera, e adesso tra i due comincia una guerra a colpi di esposti che finirà in un'aula di tribunale. Vede, si pensa con un prete di essere al sicuro, o viceversa, si pensa essendo un prete di non avere, diciamo, delle cose pubbliche che vengono a galla, invece in questo caso è andata così. Ma in fin dei conti, caro Manera, perché? Perché la castità è quella virtù che i preti si tramandano di padre in figlio. È una battuta di Danilo Arlenghi. Danilo Arlenghi, umorista italiano nato nel 1956. Non so se lo stesso. Arrivato in ritardo la risata. Chissà perché quando un prete è un buon prete si dice che non somiglia per niente a un prete. È vero, è Pino vero. Caruso aveva ragione. È di Pino Caruso questa battuta. Perché il prete, questa risata molto sobria che abbiamo. Allora, vediamo questa. Ha un incidente d'auto in ospedale, si presentano 17 fidanzate. 17, Ceva, lei le ha mai avute in tutta la vita 17 fidanzate? Mai, credo che neanche in 17 vite io possa avere 17 fidanzate. È successo in Cina, un Casanova cinese, viene definito così dal giornalista, dal Huffington Post. Lei, tra l'altro, lei sa che i cinesi, in generale gli asiatici, hanno l'organo sessuale rispetto agli europei leggermente ridotto e ancora meno rispetto agli africani. Questa è proprio una cosa provata. Però pare che gli eschimesi, per esempio, l'organo sessuale maschile in erezione ce l'abbiano di 7 centimetri. Quindi lei fa una grande figura, Ceva. Sì, ma mi spiega cosa c'entra con la notizia che stiamo per dare? Ma il sesso interessa sempre. Ma lei vuole le dimensioni... sempre parlare di misure perché ha qualche frustrazione. No, lo so. Beh, quello sì, sicuramente. Io non sono molto dotato sessualmente, però mi va bene così. Ma il sesso è sempre una... Le dimensioni interessano sempre agli uomini. So che, insomma, anche lei, forse Ceva, interessano più agli uomini che alle donne. Siamo noi che ce lo misuriamo da ragazzini, no? Beh, da ragazzini lei ha ancora qui il righello che continua a mettere sui jeans. Cioè, per favore, adesso il radio non si vede, quindi non dobbiamo descriverlo. Comunque, questa che abbiamo, la notizia che abbiamo appena detto, riguarda il signor Yuan della città di Changsha. Sarebbe Yuan, sarebbe Giovanni, no? In esatto, cinese Yuan, Yuan, Yuan della città di Changsha, sì, nella provincia cinese di Hunan. Ha dell'incredibile, appunto, questa notizia. L'uomo è riuscito a intrattenere per anni relazioni amorose durature con ben 17 donne, cosa che a me viene difficile anche per pochi mesi con due, con, come fa lei, con lei, con sua moglie e lei l'altra. No, lasci perdere. Ad incastrarlo e a consegnarlo alla polizia con l'accusa di frode, un incidente d'auto che l'ha portato a ricovero in ospedale. Quindi, quando ha contattato poi i parenti, queste ragazze hanno avuto notizia che l'uomo era in ospedale e si sono presentate lì e si sono trovate. Pensi che cosa è meraviglioso, secondo me. Tu stai in ospedale e 17 donne che ti vengono a trovare. Beh, assisti alla rissa anche conseguente. Bellissimo, ovviamente. È il mio sogno. Ma noi abbiamo fatto qualche telefonata per sapere voi come la pensate in merito alla possibile poligamia. Vediamo cosa ci avete detto e soprattutto se ci avete risposto nel merito della questione. Pronto? Stiamo conducendo un'indagine per capire se gli italiani sono favorevoli o meno alla poligamia. Lei è favorevole, sarebbe favorevole ad avere più mogli? No, non mi interessa, io ho più di 80 anni, non mi interessa. È stato sposato? No, mai. Sono convivente. Convivente, bene, lei non farebbe piacere convivere con più mogli, con più donne? Non mi interessa queste cose. Ma in passato le è capitato di avere rapporti plurimi, cioè di stare con più donne contemporaneamente, quando aveva... Ho avuto delle conoscenze. La cosa che mi interessa, soprattutto questa gente che arrivano da noi, che la piantassero. Chi questa gente che arriva da noi? Tutti sono? I meridionali, gli africani, gli extracomunitari, perché loro portano, sai che nella loro cultura, spesso in alcuni paesi da cui provengono questi extracomunitari, la poligamia è un, insomma, è un... Ma facciano cosa vogliono, va, buongiorno. Ma scusi un momento, a lei cosa dà fastidio degli extracomunitari che arrivano? Per perché li dobbiamo mantenere noi? Alla mia età si andava a lavorare, non andava in giro a fare quello che fanno loro. Quindi l'africano tendenzialmente non lavora, è un po' un... No, non lavora. Io rispetto tutti, ma che la piantano. Dico, buongiorno. Cos'è la... Sì, la cosa... Buongiorno. Lei ha degli amici extracomunitari? Sì, sì. Però come si comportano? Cos'è la cosa fastidiosa degli extracomunitari? No, mi è fastidioso che dobbiamo mantenere le nostre spese. Non li mantengono i politici. Punto e basta. Vabbè, non era propriamente in tema la risposta. Ce l'aveva con gli extracomunitari. Perché tutti ce l'hanno con gli extracomunitari? Anche senza motivo. Noi abbiamo chiesto delle 17 donne e lui ha cominciato a parlare degli extracomunitari. E qui, cioè, ce l'hanno tutti un po' qui. Però, qui a metà gola e tutti vogliono esprimersi. Per onestà, devo anche dire che una volta abbiamo fatto una domanda sugli extracomunitari e ci hanno risposto sulle donne, quindi vedi che... si compensa alla fine. Si compensa tutto. Qualche battuta sulla fedeltà o sull'infedeltà. Se qualcuno giura fedeltà fino alla tomba, di solito non pensa alla propria tomba. E di questo, chi è questa battuta? Di Zarco Petans. Famoso. Cioè, fa ridere il nome, non la battuta. Una moglie ideale è colei che ti rimane fedele ma cerca di essere affascinante come se non lo fosse. Non è una battuta, questa è più un aforisma. È di Sacha Guitry, sarà francese, non la conosco. Attore, regista e sceneggiatore francese, visto che ho indovinato. Bastava scendere di una riga e scoprivamo la nazionalità. Avanzi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti. Allora, bentornati ad Avanzi di Manera. Vi ricordiamo sempre che ci potete scrivere al nostro indirizzo mail, che è avanzidimanera@radio24.it. Ma proseguiamo con le notizie. Per esempio questa: madre di 13 anni... No. Non è madre di 13 anni. Incredibile, ma nero. No, sì, sì. Una madre. Guarda com'è la notizia anni. Vera. È questa donna che, pur avendo già 13 figli, veneranda, non lo so, comunque all'età di 65 anni, sta per mettere al mondo 4 gemelli. Caspita, quindi arriverà ad avere 17 figli questa donna. 17 figli. Lei ne ha 65 e ha una figlia di 10. Quindi quando la figlia ne avrà 20, lei ne avrà 130, giusto? Che è il doppio. No, cosa c'è? ma però pensi che questi 4 gemelli appena nati. Visto che abbiamo poco tempo, che insomma la puntata è lunga. Andiamo con la... è lunga che sa per perché, chi ci ascolta. Sa perché ha avuto 4 figli, avrà 4 figli? Perché la figlia minore di 10 anni voleva un fratellino e lei via. Inseminazione 4. Artificiale e 4 alla volta. Esatto, e quindi poi se li dovrà smazzare la figlia piccola. Ma la fecondazione artificiale si fa... come si fa? Non lo so, si fa con... In vitro? C'è il kit? Si prende in farmacia? Sa che i bambini nati in provetta, da adolescenti, si eccitano guardando la lavorazione del vetro. Di chi è questa battuta? È la mia. Devo ammetterlo che Cifa è disponibile per serate, matrimoni, cresime, compleanni, battesimi e anche funerali. E parti. Allora, visto che oggi siamo così rapidi nel dare notizie, abbiamo anche fatto una telefonata per capire se c'è qualcuno favorevole alla fecondazione in tarda età. Vediamo. Pronto? Pronto, buongiorno signora, qui è Radio 24, la radio del sole 24 ore. Stiamo commentando questa notizia di una donna che a 65 anni sta per avere 4 gemelli. Lei è favorevole o contraria al fatto di poter avere figli in età avanzata? Io direi di sì. È bello avere figli in età avanzata? No. Ah, quindi non è favorevole, è contraria? No, non sono favorevole. Lei ha figli, ha avuto figli? E non le sarebbe piaciuto in età, adesso non so quanti anni ha, ma insomma dalla voce lei può avere forse 60 anni? No, se no 78. 78. Non le piacerebbe adesso avere un figlio a 78 anni? Per carità. Beh, magari potrebbe... Per carità, che mi fa questa domanda? Ogni frutto, dicono, ci vuole la sua stagione. Questo è vero. Ecco. Senta, le faccio questa domanda. Lei si ricorda quando si è innamorata di suo marito? Come vi siete conosciuti? Una cosa banale, io stavo passeggiando, mio marito mi ha notato, mi ha aspettato che arrivassi a casa. E quando l'ha vista arrivare davanti a casa cosa le ha detto? Mi scusi, le posso parlare? Sì. Ecco, così mi ha detto. Ah, ha detto così, mi scusi, le posso parlare? E si ricorda, poi non la disturbo più, com'è successo il primo bacio, dove è accaduto il primo bacio? Proprio il primo bacio, quella domenica siamo andate a vedere Quo Vadis al cinema. Ah, sì. Ah, Quo Vadis, il film, sì. Certo. Per andare al film mi ha messo il braccio al collo, così nelle spalle, e così mi ha dato il primo bacio. E lei quindi non ha visto il film? Sì, prima di andarci. Ah, prima di andare già, perché di solito prima di andarci. Di solito, sì. Di solito si utilizza il cinema, il film. Un po' al buio. Ma dito il primo bacio, dopo c'è la continuazione. Ah, durante il film. Durante il film non è che avete smesso. Va bene, signora, la ringrazio. Prego, buongiorno. Buongiorno. Arrivederci. Che bello, una volta si andava al cinema e prima e dopo ci si baciava così, prima e dopo il cinema. Lei ha dato un bacio al cinema, Ceva? Mai. Sai che è una cosa che mi manca e se lo devo compensare. Sì, cioè, negli ultimi anni, ma quando è il momento giusto, tipo il tempo delle mele. La boom con Sophie Marceau. Esatto, io no. Anzi, le dirò di più. Una volta sono andato al cinema con un amico e una sua amica. Loro hanno iniziato a limonare di fianco a me e io veramente... E lei si è sentito solo, grande amarezza. Mi sono sentito di una... La vita è così. Grazie Beniamino che mi ricordi questa cosa. Allora, diamo le notizie invece. Un altro paio di notizie veloci prima che sia troppo tardi per darle. Ad esempio una è questa. Fa la pipì per un anno nel tè della suocera. La accoglieva col sorriso sulle labbra, molto attenta ai convenevoli, e ci teneva sempre a offrirle quella tazza di tè. Perché ci teneva a offrire quel tè alla suocera? Perché in realtà non era tè, abbiamo visto, ma era... Pipì. Era pipì. Questa signora odiava così tanto la suocera che ogni volta che la suocera andava lì, lei cominciava a urinare in una tazza in cucina e le offriva questo presunto tè. Finché però una volta... in India, dove il tè si sa che insomma come insomma, tradizione che hanno appreso dagli inglesi, si beve spesso e volentieri. E quindi cosa possiamo desumere da questa notizia, caro Ceva? Ma non lo so. Che la suocera non è odiata solo in Italia, ma è in tutto il mondo. Povere suocere, stiamo un po' dalla parte delle suocere. E l'ultima notizia che vogliamo invece dare, che insomma oggi abbiamo parlato molto anche di sesso, rapporti sessuali, amore eccetera eccetera. In Cina rapporto sessuale record tra due panda, 18 minuti di passione sfrenata. Questo sarebbe un record anche per lei, Manera. Ma per me è assolutamente un record. Io dopo un po' mi annoio, non ce la faccio. Già non faccio fatica, ma poi dopo un po' mi annoio perché è e così. Quindi viene sostituito da un panda. Da un panda, io quindi cerco un panda che faccia la mia controfigura. Vediamo se trovo per fare 18 minuti di grande sesso con una panda. Si dice un panda o una panda, sì, panda maschio, panda femmina. Bene, noi abbiamo terminato con le notizie, ma non con la puntata, perché qui ad Avanzi di Manera ci occupiamo anche di avanzi di spettacolo, non nel senso che sono spettacoli scadenti, ma nel senso che sono spettacoli che vengono poco pubblicizzati, magari a livello nazionale. E allora noi vogliamo invece occuparci di uno spettacolo bello che è interpretato da Stefano Covri, che è un musicista, e Gianfelice Facchetti, che invece è un attore, ed uno spettacolo particolare, si chiama Com'è bella la città, e a parlarcene c'è proprio Stefano Covri, il musicista dei due. Ciao Stefano. Ciao Leonardo, buongiorno a tutti. Allora, in cosa consiste questo spettacolo di cui non si parla sulle prime pagine dei giornali? Non si parla sulle prime pagine dei giornali, si chiama Com'è bella la città, e perché non se ne parla? Perché viene fatto in un luogo particolare, che è l'Istituto dei Ciechi di Milano. Vivaio al numero 7. Via Vivaio 7, in centro, quindi. Sì, ed è uno spettacolo particolare perché viene fatto completamente al buio. È uno spettacolo teatrale fatto appunto per i normovedenti in uno spazio completamente al buio. Quindi se Gianfelice Facchetti recita male non se ne accorge nessuno, oppure se ne accorgono? Se recita male se ne accorgono, se si trucca male non se ne accorgono. Tu invece come suoni? Suoni bene, suoni male? Le persone apprezzano oppure... Ma devo dire che in queste serate che abbiamo fatto, e poi vabbè, un anno e mezzo che lo portiamo avanti, in queste serate da mercoledì a oggi, penso molto molto bene, la gente è molto contenta. Ci aspettano fuori alla fine di ogni spettacolo, alla fine di ogni replica, ci aspettano fuori. In cosa consiste lo spettacolo? Di cosa parla? Anche se insomma si chiama Com'è bella la città, quindi si può anche immaginare, ma in realtà di cosa, perché poi fatto al buio? Allora, questo spettacolo parla della vita di un uomo, che nasce e vive a Milano e muore a Milano, ma è solamente un pretesto per raccontare un po' la nostra Milano, appunto vista con occhi differenti, vista con gli occhi della fantasia, insomma, in questo caso, o meglio, trasportati dai nostri racconti. Uno si immagina quello che meglio crede. gli occhi della fantasia, perché a volte per vedere bisogna nascondere, quindi non vedendo le cose le si può immaginare e ricordarsele anche in modo diverso. Insomma, questa mi sembra una buona chiave di interpretazione, buona anche perché l'ho detto io, non so se tu condividi. Cioè, con te Leonardo condivido benissimo. Allora ricordiamo fino a quando va avanti questo spettacolo e ricordiamo ancora dove si svolge. Allora va avanti fino al 19, la replica di stasera è sold out, mentre domani abbiamo ancora qualche posto. Quindi c'è ancora un giorno praticamente, solo domani sera? Sì, domani sera e poi a maggio, il 21 maggio abbiamo la replica mensile di maggio e probabilmente si aggiungeranno altre due date perché veramente stiamo avendo un grosso successo, ma stanno avendo un successo le persone che vengono, ecco, diciamo. Bravo, finisci in questo modo molto buonista come noi ti vogliamo, Stefano Covri. E allora, via Vivaio 7, come bella la città. Come bella la città, grazie Stefano, buono spettacolo a te e a Gianfelice Facchetti, ciao. Ciao, ciao a tutti. Grazie a Stefano Covri che ci ha parlato di questo spettacolo che si farà al buio. Oggi è sabato, vi ricordo che lunedì compio gli anni, quindi potete farmi gli auguri copiosamente, mandarmi dei regali, eccetera, eccetera, quello che volete. L'importante è che non li mandiate a Daniele Ceva, che è qui con me. Potete invece mandarli a Pietro Lacorti in regia, Marco Del Conte, che è il nostro autore in regia, e Guido Scotti, ormai prossimo al matrimonio, quindi tutto in fibrillazione. Oppure aprite un'azienda che si chiami Manera e sponsorizzate il compleanno di Leonardo Manera. Esatto. Ciao, grazie a tutti, buona continuazione con il sabato del villaggio. Ciao. Ciao. Buon fine settimana a tutti.